Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. La virgola di Elisabetta. A fin di bene. Ciao a tutte, ciao compagne. Penso sia il caso di spendere due parole su quest'ultima guerra cosiddetta umanitaria, perché ci interessa da vicino come donne, come femministe, come lesbiche. L'attacco militare alla Libia è l'ultimo di una serie di interventi simili e l'intervallo con cui si susseguono è sempre più breve. Non voglio entrare nel merito, almeno in questa occasione, della natura e degli effettivi motivi di queste aggressioni e invasioni. Lo sappiamo tutte che le ragioni sono economiche, di dominio territoriale e di sfruttamento. Ma vorrei soffermarmi in questo momento su un tema che è sicuramente patrimonio del femminismo. È l'antirazzismo e penso che concordiamo tutte sul suo valore. Le guerre cosiddette umanitarie, come del resto quelle coloniali, partono dal presupposto che noi occidentali, animate e animati da bontà e di cultura superiore, andiamo ad aiutare popolazioni sottosviluppate, fra virgolette, che non hanno cognizione di cosa siano la democrazia e i diritti umani. E comunque vogliamo affrancarle perché da sole non sarebbero capaci di trovare la strada dello sviluppo economico, della convivenza civile, sempre fra virgolette, e della civiltà. In parole povere, abbiamo una missione da compiere. Di certo questi interventi e relative motivazioni veicolano in maniera prepotente il razzismo, inteso nella maniera più tradizionale e forte del termine, cioè della superiorità delle bianche e dei bianchi nei confronti degli altri popoli. Le cittadine e i cittadini dei paesi occidentali, a cui viene mandato questo messaggio, ne traggono la conferma che noi siamo superiori. Ma bontà nostra, siamo generose e generosi e li aiutiamo comunque, anche a dispetto della loro volontà, perché sono così arretrati, leggi inferiori dal punto di vista culturale e politico, che vanno gestiti per il loro bene. Questo è il messaggio che viene veicolato come comune sentire. Ci meravigliamo quindi che al di là delle belle parole aumenta il razzismo qui da noi? E ci meravigliamo della facilità con cui le persone si aizzano contro i migranti e le migranti? Se si istituiscono queste gerarchie, superiore inferiore, civile incivile, sviluppato sottosviluppato tra i popoli, perché non dovrebbero essercene anche all'interno della nostra società, tra capaci incapaci, intelligenti non intelligenti, maschi femmine? E che cosa impedisce di dire che i ricchi sono ricchi perché sono più bravi e i poveri sono poveri perché sono meno capaci? E che se c'è una predominanza maschile ci sarà pure un buon motivo? Le guerre umanitarie ci interessano da vicino perché non possiamo pensare che i principi che propagano non investano anche tutta la nostra vita. Ciao. No. Regrette rien.